Io non scrivo mai commenti, né pareri, né opinioni. Ho sempre creduto e continuo a credere che non stia a noi dare giudizi. Sono una giornalista, non un giudice, e nemmeno un magistrato. Io mi limito a raccontare i fatti come sono, come stanno. Sembra la cosa più facile, invece qui è la più difficile e ha un prezzo altissimo, che non fai più un mestiere, ma combatti una guerra. Lotti, ti senti in lotta. E a 47 anni io sono stanca, non impaurita, non scoraggiata, stanca. Stanca di leggere sui giornali politici che sono una pazza. Politkovskaja alla schizofrenica, Politkovskaja alla paranoica. Stanca di spiegare ai miei figli perché chi dice la verità è un pazzo e chi dice menzogne fa carriera. Stanca di ricevere dalle 10 alle 15 minacce di morte la settimana. Compaiono sul mio computer, a volte al telefono. Stanca di sentirmi una criminale. Ogni settimana quando esce un articolo vengo convocata in procura, fra i ladri, i delinquenti. Chi sta lì per rapina, per furto, per stupro. Io per giornalismo. Conosco le scrivanie, le sale d'aspetto, gli uffici. Entro, mi siedo. La prima domanda è sempre la stessa. Perché ha scritto cose false? E chi le ha dato queste informazioni? Segue interrogatorio. 2 ore, 3. 4. A volte sono stata trattenuta, a volte arrestata. Sono stanca di spiegare ai miei figli perché passo la notte in galera. Stanca di pensare che l'informazione libera qui non esiste. Il 90% dei giornalisti in Russia ha una tessera politica. Quando hai una tessera politica non sei un giornalista, sei un portavoce. Funziona così. La stampa si divide in chi è per la Russia e chi non è con la Russia. Se sei per la Russia, dopo 5-6 anni ti fanno deputato. Se non sei per la Russia, non devi fare il giornalista. Punto. La tua è propaganda contro lo Stato. Punto. La propaganda contro lo Stato si punisce con la morte, prima o poi. Punto. Di una giornata qualsiasi a Kurchaloi, Cecenia. Le case sono grigie, non chiare. Cemento grigio, sporco, quasi nero. Non sembra Asia, eppure Asia. Asia 2006, è il 5 agosto. Polvere in aria. La piazza è piccola, piena di gente, soprattutto donne. Su quel lato della piazza non ci sono case, ma un gigante di ferro e acciaio. È il gasdotto, attraversa tutto il paese. Anzi, quasi quasi è il paese che ci è cresciuto intorno. Come quei funghi rossastri che certe volte qui si attaccano ai tronchi. Tutti intorno, abbarbicati, come se volessero rubarselo quello spazio. Polvere in aria. Il gasdotto attraversa tutta la Cecenia, dall'alto al basso. Enorme, maestoso, maiuscolo. Sembra stia per crollare da un attimo all'altro. Invece è ancora là, in piedi. Ebbene, il gasdotto corre là, in fondo alla piazza di Kurchaloi. Su uno dei tralicci c'è appeso qualcosa. È una testa, appesa al ferro, immobile. Se ne frega che il gasdotto dietro le sue spalle corra via veloce verso est. Lei sta là, immobile. E gocciola, lentamente, precisamente, gocciola. Per terra, là sotto, si è formato quasi un lago, rosso, e la testa continua a versare nel lago le sue gocce rosse, lentamente, precisamente. 2 uomini della polizia fanno la guardia, in piedi, davanti. La gente passa e guarda. Mi avvicino anch'io, fra le donne. Ho una sciarpa intorno al viso per confondermi con loro. Gli uomini della polizia ridono. Una radio accesa, c'è un ritornello. Uno dei due lo fischietta e la testa appesa gocciola. Lentamente, precisamente. Di chi è quella testa? Che cosa è successo? Due notti prima, fra il 2 e il 3 agosto, due guerriglieri ceceni sono caduti in un'imboscata. La polizia che dipende da Mosca gli ha teso un agguato 10 passi fuori dal paese. Uno dei due è stato catturato, l'altro ucciso. Per dare l'esempio a tutto il paese, quelli della polizia gli staccano la testa e la appendono dal gasdotto a sgocciolare nel mezzo del paese. Intanto gli altri poliziotti preparano i verbali. Fra mezza giornata la staccheranno da lassù, la ricuciranno al corpo col filo di ferro, come legge comanda. A quel punto avrà smesso di gocciolare. Come una cretina. Li guardo come una cretina. Quando qualcuno mi domanda: ma non hai paura di stare mesi a Grozny dove la gente muore? Mi viene da ridere come una cretina. Perché tutti, lontano dalla Cecenia, tutti pensano che il problema di stare a Grozny sia la morte, il rischio della morte. Farsi ammazzare, saltare in aria, trovarsi un proiettile nel cervello. In realtà questo è il meno. Ci fai l'abitudine. Dopo un po' non ci pensi. Sai che può succedere, ma te ne dimentichi. È talmente presente che non ci fai più caso. Il problema di stare a Grozny è un altro. È che tutto è un problema. Da quando apri gli occhi la mattina a quando li chiudi la sera. Giornata tipo di una giornalista a Grozny. Ore 7 del mattino. Sveglia. Primo problema. Lavarsi. Non c'è acqua. L'acquedotto è saltato. Apri il rubinetto e niente. L'unica acqua a Grozny ce l'hanno i militari. Se la portano dalla Russia con le autocisterne. Fuori dai loro accampamenti, infatti, c'è la fila, lunghissima. Si fanno pagare, in nero, per 3 minuti d'orologio di doccia. A volte, giuro, sono andata anch'io. Ore 9, secondo problema, colazione. Non hai da mangiare, ma qualcosa devi mangiare. Perché 8 mesi l'anno fa un freddo cane e se non mangi, svieni. I crampi allo stomaco sono roba dura. Talmente dura che se passi per strada e vedi un camion rovesciato con una folla che gli ruba la verdura, confesso, ti unisci a loro qualcosa a ferri. Altrimenti, se vuoi mangiare, l'unico cibo a Grozny ce l'hanno i militari. Se lo portano dalla Russia coi furgoni. Fuori dai loro accampamenti, infatti, c'è la fila, lunghissima. Si fanno pagare in nero per singola confezione con singola fetta di pane. A volte, giuro, sono andata anch'io. Ore 10. Cominci a fare il tuo mestiere, scrivere un articolo. Terzo problema. Non c'è energia elettrica. La rete ha subito attentati. Balbetta. Allora scrivi a mano, su fogli e foglietti. Poi detti al telefono. Da una cabina, perché il cellulare non prende. Di cabine ne sono rimaste in piedi una decina in tutto il centro della città. Dopo mezz'ora di coda puoi farcela a parlare, ma se l'articolo che detti è lungo rischi il linciaggio, quindi esci, ti rifai mezz'ora di coda e la mattinata è andata. Gli unici telefoni a Grozny ce l'hanno i militari. E se paghi, ma questo giuro non l'ho mai provato. Ore 13, ti metti in giro per interviste, inchieste. Quarto problema, spostarsi. Sconsigliato ai giornalisti tenere un'auto. Oltretutto le strade sono mezze saltate. Crateri, voragini, fosse. Ti muovi solo con i fuoristrada. I militari ce l'hanno. Ore 15, 16, 17. Quinto problema. I posti di blocco. Per i militari russi la gente a Grozny non dovrebbe mai uscire. Ti fermano dalle 10 alle 15 volte al giorno. Richiesta documenti, controllo documenti. Ironie, battutacce, doppi sensi. Poi la domanda, l'era proprio necessario circolare? Il che vuol dire che circolare è un mezzo reato. Ore 18, sesto problema, il coprifuoco. Da questo momento in poi i problemi triplicano. Bande di fuorilegge ceceni si appostano dietro gli angoli bui, funziona un lampione su 10, e ti rapinano di tutto quello che hai, perfino i bottoni della camicetta. Se non ti imbatti dei delinquenti, puoi sempre sperare negli ubriachi, comprano la vodka dai russi, o nei drogati, comprano l'oppio dai ceceni. Ma soprattutto c'è la magnifica incognita dei branchi di cani randagi, che qui in città sbranano qualche decina di persone al mese. Ore 22, ora di dormire. Settimo problema, che è appunto dormire. Le esplosioni sono 4-5 a notte. A ogni esplosione ti svegli e ti chiedi: è il mio palazzo che sta crollando? Guardi il soffitto, vedi che non crolla. Tocchi il pavimento, senti che non crolla. Ti dici: è andata. E riprendi sonno. O almeno ci provi. Fino alla prossima. Convinco ad incontrarmi un ragazzo delle unità russe, 19 anni, orfano. Gli chiedo: quanta gente hai ucciso da quando sei in Cecenia? Risposta: sono in regola. Che significa essere in regola? Con i numeri. Quali numeri? Ognuno di noi deve ucciderne 3-4 al giorno. Al giorno? Almeno 3 o 4. E ci riuscite? Ci sono delle tecniche. Cioè? Il fagotto umano. Che sarebbe? Si entra in un villaggio, si prendono 10 persone, si legano strette con una corda, ci si ficca in mezzo una granata e si fa saltare. Scusi, ce l'ha una sigaretta? Tu l'hai già fatto. Cosa? Questo fagotto umano? 3 volte. E ne sei fiero? Sono qui per questo, no? Loro farebbero lo stesso con noi. E poi non sono mica uomini, sono ceceni. Allora, ce l'ha questa sigaretta? Guardo questo ragazzo di 19 anni. Potrebbe essere mio figlio. Se un ragazzo di 19 anni parla così, un motivo ci deve essere. Qual è la causa? La ragione? Poi penso che nella vita di questo ragazzo c'è riassunto tutto il ciclo della Russia. Nato nel 1986, quando Gorbaciov parla di libertà, trasparenza. 1986, perestroika, glasnost, vita nuova. Si parla a voce alta, si dice: tutto sta cambiando. Sui giornali si comincia a chiedersi che schifo nasconda il KGB. 1991, il ragazzo ha 5 anni, va a scuola. Vede finire l'Unione Sovietica, sente tanti discorsi, l'Occidente, la democrazia, desideri, sogni, speranze, guardare al futuro. Se vuoi offendere qualcuno gli dici: faccia da KGB, che vuol dire faccia di merda. 1996, il ragazzo ha 10 anni, la grande delusione, in Russia non si mangia, negozi chiusi, ladri ovunque, prezzi impazziti. Presidente della Russia è Boris Yeltsin, ubriaco fradicio. Ai funerali di Stato in diretta TV ride e fischia. In versione di marcia, qualcuno dice: in fondo il KGB funzionava, dava l'ordine, che non c'è più. 2001, il ragazzo ha 15 anni. La Russia è peggio del Far West. Ladri ovunque, bande di mafiosi. Bombe, attentati, saltano palazzi, metropolitane. Almeno ci fosse ancora il KGB? Infatti, si prende un ex colonnello dei servizi segreti, si fa presidente, si dichiara guerra patriottica alla Cecenia, si dice che è un trionfo. Evviva la Russia, evviva il presidente, siamo di nuovo grandi. Oggi, il ragazzo ha 19 anni, si dedica ai fagotti umani ed è contento. Ma se gli chiedo: che vuoi fare nella vita? Ora sono in guerra. E quando finirà? Spero che non finisca. vento la gira. Lassù, sul soffitto, ha un rumore bestiale di ruggine, ferraglia. Appesa al soffitto come un lampadario. Ogni tanto si ferma per gli sbalzi di corrente. Poi riprende, lentamente, sferragliando, gira. Eppure l'aria è ferma. Mosche volano dappertutto. Ci sono più mosche qui all'ospedale che in una stalla di capre. Ospedale numero 9 della capitale, Grozny, l'unico rimasto in piedi. A fatica, ma sta ancora in piedi. Le tighe, brande ovunque. Qui prendono una panca, ci buttano sopra una tovaglia ed è un letto. Ogni tanto manca una parete. Si vede l'esterno. A ricordo di qualche mina. Arriva gente di continuo. Chi senza un braccio, chi col viso mezzo aperto. Ricordo di qualche mina. Dal fondo al corridoio, fra le brande, vedo arrivare il primario. È giovane. Si chiama Sultan Kayev. Zoppica. Ha un bastone. Gli chiedo cosa ha fatto alla gamba. Mi dice, sì, ci ho rimesso la gamba. Mi è andata bene. Sono vivo per miracolo. Ricordo di qualche mina? No. Ero in auto. A un incrocio. Un autoblindo militare russo è piombato all'improvviso, velocissimo, in piena città. La macchina distrutta, io sbalzato fuori. Lo guidava un soldato russo, 20 anni, ubriaco. C'è stata un'inchiesta. Gli hanno dato un premio. Dottor Kayev, ma qui vedo soprattutto donne. Sì, in maggioranza donne. Vengono dai paesi, dai villaggi. Ci sono bande miste di guerriglieri ceceni e soldati russi. Fanno a gara chi ne stupra di più ogni notte. E la polizia non li ferma. La polizia? Qui in Cecenia? Qui in Cecenia non esiste reato di violenza contro le donne. Lo stupro è legale. Se stupri una donna, nessuno fa niente. Al reggimento del colonnello Budanov portavano un camion di ragazze ogni notte. Al mattino finiscono qui, se non si divertono a ucciderle di botte. Ma prima o poi tornano a casa. A casa. Per la tradizione cecena, quando una donna viene violentata non è più degna neanche di suo marito. Vengono abbandonate anche dalla famiglia, diventano impure. E che fine fanno? Nessuna fine. Restano così, senza nulla dentro. In Cecenia è tutto così, sospeso. Siamo corpi, senza niente dentro. Siamo nessuno. Una terra di nessuno. Una terra di nessuno. Scompaiono. Così, all'improvviso. 3.000 famiglie, ora, adesso, in Cecenia, cercano. 25.000 persone, ora, adesso, in Cecenia, cercano. Un fratello, una moglie, un figlio, una madre. Scompaiono. Così, all'improvviso. I militari russi li caricano sui camion. Non se ne sa più niente. Inizia la ricerca. Chiedere, domandare, pagare. Entri, entri. Venga dentro. C'è quasi buio dentro il carro armato. Piove a dirotto da stamattina. Sento battere la pioggia misto a grandine sulla lamiera verde del blindato. È la prima volta che un ufficiale russo in Cecenia accetta di parlarmi. Lui è Alexei, il cognome proibito dirlo, colonnello. Comanda un'unità aerotrasportata. Siamo a Cotuni, Un posto fantasma, pieno di discariche. Prima di entrare nel carro armato, il colonnello mi mostra decine di fosse. Sono voragini, profonde, piene di spazzatura. Ci buttano dentro i bidoni dell'immondizia. Qui non c'è altro modo. Sta buttata, lì dentro. Ha visto quelle fosse? Insieme all'immondizia ci teniamo dentro i ceceni. Che significa? Non ci sono carceri in questo punto. Se facciamo prigionieri li buttiamo qui. Dentro le fosse? Sì, ce ne stanno a decine, incastrati. Perché mi dice questo? Nessuno ne parla mai. Perché sono convinto che facciamo bene. Quella gente che a Mosca faceva saltare i palazzi. Voi giornalisti dite che noi russi qui facciamo le peggiori porcherie. Ma vi dimenticate che i ceceni sono terroristi. Ah sì? Allora perché i militari russi saccheggiano i villaggi insieme alle bande di ceceni? È falso. È tutto documentato. Noi qui manteniamo l'ordine. Ah sì? Qui non ci sono terroristi. Voi qui massacrate la popolazione civile. Noi qui imponiamo l'ordine. Quindi nega che i militari russi violentino e rubino? Noi siamo qui per difendere la Russia. Da chi? Dai nemici del popolo e dai traditori. I traditori? Sì, i giornalisti come lei, che scrivono menzogne. E cosa dovrei scrivere? Che siete tutti eroi? Che combattiamo per la patria. Uccelli che volano neri sul cielo bianco sembrano dipinti senza colore. Capita di vedere anche questo a Grozny. 27 dicembre 2002. La città è bianca, il cielo è bianco. Sono mesi che nevica su Grozny ininterrottamente, mai visto un inverno così. Ghiaccio, nevischio, una morsa. Rovine coperte di neve. Palazzi sventrati, aperti, deserti. Scheletri di ferro, cemento armato, vetri. 15 gradi sotto zero. Rovine coperte di neve. Capita di vedere anche questo a Grozny. Su un muro, nel bianco, stacca una scritta rossa di vernice fresca. Russi, arrendetevi, siete circondati. Capita di vedere anche questo a Grozny. È un pomeriggio come tanti di un inverno gelido. 27 dicembre, 4 giorni al Capodanno. 27 dicembre 2002. Ancora non so che questa data diventerà famosa. Il più grande attentato degli ultimi 10 anni. Ceceni che fanno saltare in aria altri ceceni, fra di loro. A volte si dice come le bestie. Ma le bestie non si uccidono così, fra loro. Un camion imbottito d'esplosivo. Un kamikaze lo fa schiantare contro un muro. Il muro del palazzo del governo. Numero di morti non quantificabile. Chi non ha visto con i suoi occhi un attentato, non ne parli. Perché non sa niente. Chi pensa che il sangue in terra sia rosso non parli, perché non sa che è marrone, quasi nero. Chi pensa che un cadavere faccia impressione non parli, per chi non sa di chi striscia vivo coi suoi pezzi. 27 dicembre 2002. In quel momento mi trovo poco lontano, 3 isolati, forse 4. L'esplosione fa tremare le pareti. Non è la solita bomba o colpo di mortaio, no. Lo penso io, lo pensa chi mi sta intorno. Si è fermato il tempo. Stop. Prima il botto assordante, ora silenzio. Si è fermato il tempo, per un attimo. Poi riprende. Il fumo invade la strada. Ma non dopo un po', no. Subito. E dal niente. Come un eco, ma lontano. Un suono che non sai cos'è. No. So cos'è. Impastato, animale, profondo. Sono le urla di chi sta là. Decido di correre. Voglio vedere. Svolto l'angolo, corro. C'è una folla che scappa. Corro, gridando, urlando, scappa. Corro, in senso opposto, scappa. Corro, le facce sporche, grigie, polverose. Scappano, corro, e urtano, sbattono. Neanche ti vedono, corro. Il fumo nell'aria prende la gola, corro. E il cuore nel petto che va a 3000. Corro, ho l'affanno, non ho fiato. Corro, anche gli occhi bruciano. Corro, bruciano moltissimo. Corro, le fiamme, ora le vedo, altissime. Corro, dietro di me le sirene che arrivano. Corro, inciampo, mi riprendo, la neve è fresca. Corro, c'è nebbia in aria. Corro, non è nebbia, è fumo, cenere, polvere. Corro, ci sono quasi. Corro, alzo gli occhi, mi fermo. C'è fuoco dovunque. Davanti ai miei piedi, nel ghiaccio. Furgoni incendiati. Vetture su un lato, fogli, cartelle, vestiti a brandelli, divise, sottane, capelli di lana, sciarpe, stracci, guanti, pneumatici, cofani, pezzi di muro, intonaco, vetri, schegge, ferri, legni spezzati, una testa umana. Piastrelle, maniglie, un volante, un sedile, una radio, una gamba, sportelli da taxi, pezzi d'insegna, un braccio, una mano, bandiere con l'asta, sacchi di plastica, vomito, merda, nafta, benzina, cartelli stradali, foto ricordo, due cani morti. Carriole, cassetti, bottiglie, vomito, merda, tizzoni, capelli, il sangue, la neve, il sangue, la neve. Giornalista, guardami. La lampada fissa negli occhi abbaglia. Vorrei mettere una mano per parare la luce, ma sento una radio accesa, musichette. La stanza accanto, forse l'altra, non lo so, comunque è accesa. Io seduta, cos'è? Una sedia? Non ci ho fatto caso. Abbasso gli occhi. Una cassa, di legno, non direi, è cartone, cosa c'è dentro? Non ne ho idea. I miei occhiali, dove sono? Me li hanno tolti, perché poi, contorni sbiaditi, stringo gli occhi, metto a fuoco, niente, non ci riesco. Le gocce di sudore sono tanto grandi che potrei contarle. Sì, potrei contarle. Sul collo, lungo i capelli, dietro le orecchie. Una, due, tre, 20, 30, 50. Loro intorno. Quanti sono? 3, 4. C'è anche un altro. Entra e esce. La canna del fucile sta puntata contro la mia nuca ormai da quanto? Un'ora, forse meno. Comunque sembra un secolo. Uno mi sta seduto davanti. Si pulisce le unghie nere con la punta di una penna. Ha gli stivali mezzi slacciati. I gradi, quelli li vedo. Sono da tenente. Allora, giornalista. Che fai? Non vuoi dirci con chi hai parlato? La musichetta dalla radio non si abbassa. Sento un rumore alla mia destra. Di scatto volto il viso. Una mano mi afferra i capelli, tira verso l'alto, mentre un pugno mi sfascia il naso. Finisco a terra. Striscio la faccia sul pavimento. Mi tirano un calcio contro il petto. In due, da sotto le braccia, trascinata fuori nel cortile. Da qui la musichetta non si sente. Mi legano a qualcosa. Ferro freddo sulla schiena. Un mortaio, credo. Un vecchio grad multiplo da armata rossa. Adesso facciamo il botto e ti ritrovano a pezzettini. Giornalista, che fai? Non parli? Non parlo. Infatti, non mi esce un suono, non una parola, non una lacrima, non un lamento. Non sono più io. Non muovo un dito, non mi appartengo. Vorrei chiudere gli occhi, ma non ci riesco. La musichetta ha ripreso. Quella la sento. Entra uno, correndo. Dice qualcosa all'orecchio dell'altro. Facendo a me, mi fissano. Poi... Giornalista, il ministero ti ha salvato il culo. Non reagisco. Non mi riguarda. Mi slegano. Avanti. C'è un elicottero in partenza. Non muovo le gambe. Mi buttano dentro. Resto lì per tutto il volo. I piloti ridano. Barzellette sporche. Accanto a me sento un altro corpo. Esploro con le dita. Non si muove. Volto il viso. E mi costa molto. È un cadavere ancora caldo. Divano di casa. No, non in Cecenia. Casa mia, a Mosca. Telecomando. Giro i canali distrattamente. Notiziari, quiz, sport. Giro i canali distrattamente. Poi mi fermo. Primo canale della rete pubblica. Televisione russa, televisione di Stato. Ore 8, fascia di massimo ascolto. Cioè, in questo momento... Milioni di schermi in milioni di case sintonizzati. Va in onda la nuova fiction. Titolo: La giusta guerra. È ambientata oggi in Cecenia. Non cambio canale. Mi interessa. Protagonisti: un gruppo di soldati russi. Sono giovani e belli. Ricevono una lettera. Partirai per la Cecenia. Sono felici. Darei tutto per difendere la patria. Un padre saluta un figlio in partenza per il fronte. Io ai miei tempi ho combattuto Hitler. Ora tocca a te. Lacrime, emozioni. Faccio caso che quando inquadrano le truppe russe parte in sottofondo una musica struggente. Non bevono, non parlano male. Sono onesti, leali. Si chiamano amici. Si aiutano, si sacrificano. Scrivono lettere a casa battendo i denti dal freddo. Quando uno di loro viene colpito da una mina, si sente un coro di voci bianche. La caduta dell'eroe. Dall'altra parte ci sono i cattivi, i ceceni. Hanno scelto attori brutti, sfregiati, con bende, cicatrici. Faccio caso che i personaggi russi hanno tutti bei nomi. I ceceni non hanno proprio nomi, solo soprannomi. Lo sciancato, il guercio, il falco, occhio di ratto. Non c'è una sola sequenza in cui non dicono oscenità. Rubano, si drogano, uno vende i figli, l'altro uccide la moglie, progettano attentati a Mosca, ci ridono sopra. Li faremo fuori tutti questi sporchi russi. In una scena si mostra la moschea di Grozny, Sembra il covo delle favole russe. È un posto umido, buio. Tutti entrano armati di pugnale. Quando uno di loro muore ammazzato, il cielo si apre ed esce un raggio di sole. Ma il personaggio migliore è una ragazza, cecena. Stranamente ha un nome, Rukia. Questa ragazza sta con un ceceno, brutto e cattivo, che la picchia ogni giorno. Ma lei si innamora di un soldato russo, Sasha, che la salva e la porta con lui nella caserma russa. E allora tutti gli ufficiali gli dicono: qui starai in pace. E lei dice: Dio vi benedica, russi. Titoli di coda. Una scritta grande come tutto lo schermo. Avete visto una storia vera. In questo momento, in tutta la Russia e oltre, milioni di schermi in milioni di case. Avete visto una storia vera. Mi chiamo Bakar, Abu Bakar. Io sono Anna Politkovskaya. Perché ha accettato di venire? Non lo so, ho accettato, ora sono qui. Non perdiamo tempo. Perdere tempo per cosa? Per la trattativa. Sia chiaro, in questo teatro abbiamo 800 ostaggi. Noi siamo 41 sequestratori, siamo pronti a morire. Tutti, l'abbiamo messo in conto. D'accordo, d'accordo, ma in sala ci sono dei bambini, lasciate andare almeno loro. Perché? Crede che i soldati russi in Cecenia non se la prendano coi nostri bambini? Ora ci teniamo i vostri, così imparate. Fate portare del cibo. Ci sono donne incinte. Sono giorni che siete chiusi qui dentro. E allora? La gente in Cecenia muore di fame. A questo punto si toglie il passamontagna, il mitragliatore fisso sulle ginocchia. Parliamo così, seduti uno di fronte all'altra. Io e il terrorista capo, nell'atrio del teatro Dubrovka. Sul pavimento una distesa di vetri rotti. Gelato squagliato color lampone, si appiccica le scarpe. I manifesti del musical Nord-Ost crivellati dai fori di proiettile. So che oltre quella porta, in platea, ci sono centinaia di persone. Le loro sorti dipendono anche da me. Conto le parole. Chiedo cosa vogliono. La fine della guerra. E credete di ottenerla così? Non c'è altro modo. Il mondo se ne frega di noi. Ci state ammazzando. Deve cambiare. Ma voi chi siete? Un battaglione di combattenti per la Cecenia. E siete venuti tutti qui? Solo i migliori. Abbiamo fatto una selezione. Tutto questo lo prepariamo da un anno. E quanti anni avete? Tra i 20 e i 30. Ammettiamo che io ottenga una tregua. Solo se il presidente ritira l'esercito dal nostro distretto, liberiamo gli ostaggi. Glielo dica. E voi che farete? Anche se liberiamo gli ostaggi, ci attaccheranno. Siamo imbottiti di esplosivo. Ci faremo saltare in aria. A questo punto, apre la giacca mimetica. Ha una cintura alta e spessa, piena di fili elettrici. Pronta a saltare. Anch'io ho ucciso. Io, Anna, anch'io sono sporca di sangue. In Cecenia non c'è nessuno che non lo sia. Era il 2001. Arrivo al tramonto in un villaggio di montagna, Tovzeni. Cerco informazioni sui saccheggi che colpiscono tutti i paesi. Nessuno mi parla, mi evitano. Faccio domande, chiedo, niente. A un tratto mi viene incontro un montanaro, alto, massiccio. La faccia dura, sembra scolpito con l'ascia. Si chiama Vaka Kosuyev. Mi racconta che era maestro nella scuola elementare, un tempo. Mi dice, le dico io quello che ci hanno fatto. E mi guida verso una catapecchia, una stalla per le capre. È casa sua. Ci sediamo. Mi versa una bevanda calda. Poi mi guarda e dice, prometta che scriverà. Se mi promette, io parlo. Scriva che hanno fatto le loro perquisizioni, anche quassù. Le chiamano Zaczynski, pulizie, razzie. Hanno preso 150 uomini del villaggio, li hanno caricati sui furgoni, li hanno portati via. Per tornare a casa hanno sborsato soldi ai russi, tutto quello che avevano, per rivedere casa. Ma le case intanto non c'erano più. Le avevano già ripulite. Non c'era rimasto più nulla. Lo scriva. L'unica che accetta di parlarmi è una donna. Si chiama Marca, tiene per mano suo figlio. Mi fa entrare in un pollaio. È casa sua. Anche lei vuole una promessa. Mi dica che scriverà. Scriva che qui vengono bande di russi e di ceceni, tutte insieme. Scriva che hanno fatto fuori una famiglia. Scriva che l'hanno fatta fuori perché nel loro frigo non c'era birra. Scriva, scriva, scriva. Saluto il maestro di montagna sulla porta della catapecchia. Saluto Marca sulla porta del pollaio e mantengo la promessa. Scrivo. Tutto quello che mi ha detto Vaka, il maestro di montagna, tutto quello che mi ha detto Marca dentro quel pollaio. E pubblico tutto. Due giorni dopo la pubblicazione, un blindato russo si ferma davanti alla catapecchia. Sei tu, Vaka Kosuyev, quello che ha parlato con la giornalista? Non risponde neanche, non fa tempo. Una raffica, via. Sei tu, Marca, quella che ha parlato con la giornalista? Non risponde neanche, non fa tempo. Una raffica, stesi per terra. Lei e suo figlio. Morti per causa mia. Per colpa mia. Chi mi sta accanto dice, non ha senso, Anna. Li hanno uccisi i soldati, non tu. Certo, ma non sarebbero morti se non avessero parlato con me. Io ho scritto. Lettera aperta pubblicata sul giornale di Sakhalin dai militari del 68° Corpo d'Armata russo in Cecenia. Alla pochissimo stimabile giornalista Anna Politkovskaya. Lei non è la prima né sarà l'ultima ad offendere le forze armate russe. Abbiamo sentito il bisogno di scriverle nonostante il disprezzo, non per rispondere al fango che ci butta addosso, ma perché ci urta che lei sia considerata da molti una gran cronista. Lei ci accusa duramente per averla arrestata ad un posto di blocco nel febbraio scorso. Bene, è possibile che lei sia stata trattata con durezza, forse con violenza. Ma le chiediamo, non sa che qui c'è la guerra? Pretende le buone maniere? Se voleva essere trattata coi guanti non doveva venirsene in Cecenia. Se è davvero una gran giornalista dovrebbe sapere che la guerra ha le sue regole e chi le infrange non venga poi a piangere come lei fa nei suoi pezzi. Non doveva venire qua giù a infamare chi rischia la vita per evitare che la sua casetta a Mosca salti in aria. Accusando noi, lei sta dalla parte opposta a noi, quindi è un nemico, signora cara. Sappia che qui siamo spietati contro i nemici e continueremo ad esserlo per dovere di patria. Non volendo firmarci di persona, sappia che siamo comunque un gruppo di ufficiali di Stato Maggiore. 23 marzo 2001. Lettera di risposta pubblicata sul giornale di Sakhalin 3 settimane dopo. 13 aprile 2001. Agli anonimi ufficiali di Stato Maggiore del 68esimo Corpo d'Armata Russo. Gentili signori, conoscete chi sono, nome e cognome, perché non mi nascondo dietro l'anonimato e non cammino in Cecenia con il passamontagna nero fisso sul viso, come fanno le truppe russe per un motivo che ignoriamo. Voi mi scrivete che getto fango. Io mi limito a raccontare. Se vedo che le tasse pubbliche finanziano violenze e torture, ho il dovere di scriverlo. Mi scrivete che rischiate la vita per la Russia. Io vedo che molti di voi se ne stanno ben protetti nei campi, mentre gli aerei fanno saltare i villaggi e i paesi. I giornali russi sono pieni ogni giorno di racconti di eroi e martiri. Io ho chiesto ai militari di farmi da scorta in zone di pericolo e nessuno di voi si è mai mosso. Ho visto invece i nostri militari saccheggiare gli uffici postali e spedire i soldi a Mosca dentro le bare dei soldati morti. Ho visto chiedere riscatti per restituire mogli o figli rapiti e tenuti nei campi. Ho sentito e visto di fosse dove si tengono al sole i prigionieri insieme all'immondizia. Mi scrivete che sarei una nemica e per questo mi minacciate perfino dalle pagine di un giornale. Rispondo che sono una nemica, è vero. Nemica di un esercito di criminali raccattati fra le galere e la malavita di Mosca. Nemica di chi stupra, saccheggia e ruba. Se poi voi siete davvero fieri di quello che fate, se siete convinti di essere nel giusto, allora benissimo. Togliete il passamontagna, basta con l'anonimato. Guardatemi negli occhi e ditemi che ho torto. Devotamente. Anna Politkovskaya. Dove sono? Dove mi trovo? Nebbia. Sento voci intorno, ma non distinte. Rumore di voci. Non molte. Una, due. Parlano. Basterebbe aprire gli occhi. Infatti ci provo. Niente. Non ci riesco. Resto ferma, immobile. Di certo sdraiata. Con la punta delle dita esploro lo spazio. È fresco, morbido, direi un letto. Decido di fare uno sforzo. Chiedermi che cosa ricordo. L'ultima cosa, l'ultimo squarcio. Mi guardo dentro. Apro i cassetti. Niente. Nebbia. Ecco. Un'immagine. Cos'è, un treno? Un autobus? No. I finestrini sono tondi. Un aereo. Ecco. Come quando si sviluppa una foto che si lascia a bagno nell'acido e prende vita dal nulla. Ci sono io che corro per non perdere il volo. Quattro uomini che mi fermano. Signora Politkovskaya, dov'è diretta? In Ossetia, a Beslano, in quella scuola dove c'è il sequestro. Venga con noi, il suo volo è quest'altro. Ho l'affanno. Salgo in aereo. Chiedo un tè. Ricordo il vassoio. Di plastica dura. Bevo. Guardando fuori. Vedo Mosca sotto di noi, che sparisce. Le case, le strade, i campi. Bevo. Poi, che succede? Mi addormento. E adesso qui, dove mi trovo? Raccolgo le forze. Mi dico, avanti, forza, apri gli occhi. Il petto mi batte fortissimo ora. Una fitta alla testa. Sto per cedere, poi li spalanco. Il bianco è una camera, corsia d'ospedale. Le voci qui accanto sono due infermiere. Una magra,

14 anni. Olga Zadoyeva, 13 anni. Anna Zadoyeva, 11 anni. Larissa Zadoyeva, 10 anni. Madina Susanova, 7 anni. Inga Susanova, 9 anni. Boris Susanov, 14 anni. Questi nomi sono il corridoio 1 del cimitero. E di corridoi ce ne sono a decine. Vorrei chiedere agli intelligenti. Sulle tombe c'è mai scritto ucciso dai ceceni o ucciso dai russi? C'è scritto ucciso dai terroristi o ucciso dall'esercito? Certo, prendere una posizione è intelligente. Da una circolare interna dell'ufficio di presidenza russo, firmata da Vladislav Surkov. I nemici dello Stato si dividono in due categorie. I nemici che si possono far ragionare e quelli incorreggibili. Con questi ultimi non è possibile dialogare, ciò li rende non rieducabili. È necessario che lo Stato si adoperi con ogni forza per bonificare il territorio da questi personaggi non rieducabili. Anna Politkovskaya è donna non rieducabile. Mio figlio ha la voce strana. Cerca di nasconderla al telefono. Quando gli chiedo cosa hai fatto, mi risponde 2 o 3 volte: niente, sta tranquilla, sta tranquilla. Quando sono all'estero o lontano da Mosca, mi dicono sempre: sta tranquilla. Oppure, quando torno, ti racconto. Questa volta è diverso. Mi basta insistere un po' più del solito. Hanno ucciso una donna stamattina. Uno sparo. Stava entrando nel nostro palazzo. Andava da un'amica al primo piano. Era alta, bionda. Aveva la tua età, più o meno. Proprio una come te. Dicono che è stata una rapina, ma mi ci vuole un po' per capire, per collegare. Hanno ucciso sotto casa una come te. Una come te. Questa frase mi rimbalza nel cervello. Riattacco il telefono. Una come te. Una come me. Quel colpo di pistola non era per lei. Era per me. Uccisa per errore. Era il mio turno. È toccato a lei. Sì, ho fatto denuncia, ho segnalato, ho chiesto, ho preteso. In fondo però a che serve? Chi ha sbagliato prima o poi rimedierà, lo so. Forse domani, forse fra un mese, forse fra... quanto? Chissà. Diciamo prima o poi. Prima o poi. Prima o poi. Anna Politkovskaya è trovata morta il 7 ottobre 2006 nell'ascensore del suo palazzo a Mosca. Era tornata a casa dopo aver fatto la spesa. I sacchetti erano molti e pesanti. Li portava su facendo 2 viaggi. Il primo già fatto, il secondo rimasto a mezzo. I sacchetti stanno a terra, rovesciati nel sangue. L'hanno uccisa con 4 proiettili, di cui 1 alla testa. Accanto al cadavere hanno lasciato una pistola Makarov PM e 4 bossoli, è l'arma tipica degli omicidi su commissione. La polizia ha sequestrato il computer della giornalista e tutto il materiale della sua inchiesta sulle torture in Cecenia. Doveva essere pubblicata sull'ultimo numero. È ancora tutto sotto sequestro. non pubblicabile fino a data da definire. I funerali si svolgono il 10 ottobre nel cimitero Troie-Kurovsky di Mosca. Più di 1000 persone partecipano alla cerimonia. Fra loro nessun rappresentante del governo russo, nessuno dei partiti al governo, nessuno dei loro giornali. Uno dei più importanti uomini delle istituzioni alla domanda: come commenta la morte di Anna Politkovskaya? Ha risposto: mi dispiace, non so chi sia Anna Politkovskaya.